Allora, per il nome bisognerebbe aprire una sorta di capitolo biblico, nel senso che ci abbiamo messo anni a trovare il nome e stavamo impazzendo perché volevamo che il nome rendesse subito un po' il carattere e gli intenti della collana, e non è mai facile trovare un nome. E in realtà poi è arrivato, come dire, per magia, proprio all'ultimo, quando eravamo al punto del tipo non possiamo rimandare la collana perché non abbiamo il nome, ed è stato un po' un ragionamento, come dire, spiegargli è sempre un po' strano, però appunto siamo partiti dall'idea di cani sciolti, no? Quindi di coloro che fanno ricerca espressiva, autoriale, fuori dalla massa, fuori dai sistemi commerciali, e da quello a un certo punto poi insomma è arrivato il nome, perché poi in fondo siamo tutte gattare. E quindi ovviamente l'idea era proprio anche, no? Parliamo di volumi piccini, nel senso che sono in formato A6, a un prezzo molto popolare, per ora il prezzo è di 6 euro a volume. Poi ovviamente, come dire, mai dire nulla in un paese in cui la carta è aumentata del 200% in pochi anni, quindi Certo. come dire, ci prefissiamo comunque, l'intento della collana è quello di essere super accessibile da un punto di vista economico, e allo stesso tempo volevamo quindi, no, togliere anche un po' di... Spesso i libri, no, hanno un'aurea tutta magica di importanza, mentre invece insomma riportare tutto a un prezzo popolare, a un formato tascabile che se lo apri insomma non... e ti si rovina perché lo leggi con gusto, non pensi, oh mio Dio, ho distrutto un cartonato super prestigioso e super prezioso. E quindi, no, riportare tutto al gusto di leggerseli, di esplorare, anche perché il prezzo accessibile rende possibile, no, scoprire tanti immaginari diversi senza, come dire, dover ipotecare lo stipendio mensile per chi ce l'ha. L'idea ovviamente è di portare avanti la nostra ricerca, che già portiamo, insomma, abbiamo portato avanti in questi anni, in quella che è la nostra classica collana di fumetto, che è Kina, quindi fumetto indipendente, underground, alternativo di ricerca, però renderlo disponibile a tutte le persone che vogliono scoprire questo mondo, e vogliono in qualche modo esplorare tante voci diverse. Per ora principalmente saranno voci italiane, perché ci piaceva l'idea di creare, no, in qualche modo una carrellata di immaginari a poco costo, anche se in realtà poi sono storie che hanno una loro complessità, ovviamente, perché si parla di fumetto breve, però parliamo di comunque un'ottantina di pagine circa, poi ovviamente oscilleranno un minimo, sia in bianco e nero che a colori, anche se i primi due titoli sono comunque in bianco e nero. Ma il prezzo resterà, diciamo, uguale al di là del numero di pagine, colori in bianco e nero, in modo che si scelga per il gusto e non per il prezzo. Ecco, parliamo proprio dei fumetti che sono già usciti per questa collana. Se non erro, dovrebbero essere tre, perché uno dovrebbe essere uscito anche a fine aprile, giusto? Allora, sono due, ovvero Deadline Party di Alessandro Ripane, Scuola di Bacio di Percy Bertolini. Allora, il fumetto di Alessandro è tantissimo tempo che era, come dire, in cantiere. Lui è stato super entusiasta quando abbiamo iniziato a parlare qualche anno fa ormai della collana, ed è stato super contento di uscire in questo modo, no? Quindi lo ringraziamo con tutto il cuore per aver creduto in questo progetto un po' folle, perché è sempre difficile, no? Scegliere di pubblicare una collana quando ancora questa non esiste come dire, un campione da vedere sfogliare, soprattutto un qualcosa di così diverso che nel mercato editoriale italiano assolutamente non esiste, perché comunque il fumetto di un certo tipo esiste solo in formato graphic novel, e sappiamo che negli ultimi anni i prezzi ormai sono dai 20 in su, più o meno. Percy, in realtà, quando ci ha contattato per farci conoscere questo progetto, ovviamente è un autore che noi abbiamo seguito in questi anni, abbiamo apprezzato tantissimo anche la prima pubblicazione libraria, come dire, fuori dalle autoproduzioni, che ha fatto da sola con Diavolo Edizioni. Insomma, è un autore che assolutamente abbiamo sempre seguito, e quando ce l'ha proposto abbiamo proprio pensato che fosse perfetto per il formato dei gatti sciolti, e lui ha risposto super entusiasta, soprattutto perché è bello portare un certo tipo di fumetti, un certo tipo di contenuti, un certo tipo di ricerca artistica comunque a tutte le tasche. E tra l'altro il progetto di Percy è particolare perché in realtà uscirà in tre volumi, quindi questo è il primo, il secondo appunto uscirà fine maggio, inizio estate, il terzo uscirà poi a settembre. Non è una serie per cui resterete, come dire, chi lo leggerà resterà in sospeso. Sono tre esplorazioni che raccontano un po' appunto la riappropriazione degli spazi, un nuovo protagonismo, un nuovo modo di concepire la scuola e in realtà poi insomma le nostre relazioni e il nostro modo di stare in questa società, insomma anche un po' il tipo di società che vogliamo costruire. In realtà ci sono un sacco di altri titoli di lavorazione, come dire, nell'anno ci saranno più uscite ed è una collana insomma che vogliamo portare avanti piano piano negli anni, ma comunque saranno almeno insomma 5-6 uscite annuali. Ecco, per seguire queste uscite basterà immagino seguirvi insomma sui canali social e nelle librerie indipendenti di tutta Italia. Assolutamente, questi volumi sono destinati al normale mercato librario e alle fumetterie. Noi consigliamo sempre, come dire, anche se esistono sugli store online, tra l'altro anche sul nostro shop online, noi consigliamo sempre di recarsi nei luoghi fisici, di scoprirli se non li conoscete, ce ne sono tanti in tutte le città. Insomma, le librerie indipendenti con cui collaboriamo hanno risposto davvero entusiaste a questa collana, forse se ne sentiva un po' il bisogno proprio perché i prezzi ormai del fumetto sono cresciuti troppo ed è anche difficile per chi vuole in qualche modo entrare in questo mondo del fumetto farlo senza svenarsi e magari essere bloccati proprio dal prezzo, no? In questo modo molte librerie potranno avere il fumetto indipendente in un formato tascabile. Insomma, ci sembra che per ora l'idea stia funzionando e che ci fosse voglia, no, di ritornare a un qualcosa di più popolare, inteso ovviamente in senso, un po' più inteso in senso positivo, ecco. Bene Matilde, grazie mille per averci raccontato questa nuova collana di Eris Edizioni e ci sentiamo per le prossime uscite. Grazie a voi e un saluto a tutte le persone che ci hanno seguito.